Tempo di sport con Carlo Genta. Faccio passare un altro avversario, tiro un po' la gamba e via. Marco a zona sto mercenario, scommetto cosa vuoi che sia. Non sono il solo ovunque vai, potrai vedere in giro dei compagni miei. Io vendo desideri e speranze in confezione snai. Beh, stamattina i giudici si sono svegliati presto, anche per forse per evitare concomitanze con le Olimpiadi. Oggi potrebbe essere una giornata campale per i nostri e hanno reso note sentenze di cui da due giorni andiamo parlando. 10 mesi di squalifica per Antonio Conte, la Juventus che si trova improvvisamente senza allenatore per tutta la prossima stagione. Carobbio considerato test attendibile, Stellini ha confessato e patteggiato, si è ritenuto che le dichiarazioni pro Conte nella gara tra Siena e Novara, dichiarazioni dei giocatori, fossero più che altro volte a pararsi il sedere per evitare di essere incriminati loro stessi. Poi c'è Albino Leffe, Siena, dunque 10 mesi per Conte, mentre Bonucci e Pepe, come appunto da due giorni anticipiamo, assolti perché non è stato ritenuto attendibile il test Masiello. Non è finita qui, dal 20 agosto tutti davanti alla Corte di Giustizia Federale per gli appelli. Io saluto e ringrazio Giuliano Foschini, giornalista di Repubblica, che da un anno è immerso, peggio di Valerio Cleri, che sta disputando i 10 chilometri a Londra ed è in difficoltà a metà gara, 15esimo a 7 secondi dal tedesco Waschburger, che è primo. Ebbene, Giuliano Foschini, che con Marco Mensurati tra l'altro ne ha tratto un romanzo su sfondo veritiero che si intitola Lo zingaro e lo scarafaggio. Ciao Giuliano. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Allora, lo zingaro e lo scarafaggio della vicenda di oggi chi sono? Ma è senza dubbio la Federcalcio. Sì. Dall'inizio insomma, abbiamo questa sensazione che purtroppo viene tragicamente confermata a ogni evento. Se tu hai detto prima, l'errore di base di questo processo è che non era un processo giusto, non potevano venire sentenze giuste da un processo che è un processo farlocco. Mm-hmm. Si è deciso di prendere un'inchiesta, anzi tre inchieste delle procure, spacchettarle in 10 filoni. Mm-hmm. È bene ricordare che non è finita qui, tra un po' discuteremo della Lazio, tra un altro po' discuteremo del Genova, poi ci sarà un altro filone di Bari, in cui alla fine arriviamo a dei paradossi per cui Carobbio è credibile, Masiello non è credibile per la procura sportiva, ma invece è credibile per la procura penale, insomma tutta una strana storia di azzeccagarbugli, sì, dalle quali poi alla fine viene fuori soltanto una grande confusione, devo dire sentenze non giuste, ma al di là di chi è colpevole e di chi è innocente, non giuste perché non è stato giusto il processo, non è stato possibile fare un processo. Ma il processo sportivo è un processo draconiano, continuiamo a dirlo da anni, vige l'inversione dell'onere della prova, che è qualcosa di giuridicamente aberrante, eccetera eccetera, quindi non è più vero, alla fine come? Eh no, perché la sentenza di oggi rovescia quel caposaldo, cioè nel caso di Masiello e di Bonucci, rovescia esattamente quel caposaldo, cioè a un certo punto viene detto che Masiello è attendibile laddove ci sono dei riscontri esterni, sì, non è attendibile laddove non ci sono riscontri esterni. Ha maggior ragione, diventa una specie di gogna mediatica. È un principio che valiva per la giustizia penale, fino a ieri non valiva per la giustizia sportiva, da oggi invece vale, quindi è stata riformata la giustizia sportiva senza che c'è stata una riforma. Senti, come valuti, direi, politicamente questa sentenza? Ma che devono immediatamente dimettersi tutti. Cioè, non ci sono altri, cioè voglio dire, secondo me, secondo Marco, noi l'abbiamo detto pubblicamente più volte, cioè l'unica cosa che bisognava fare era un maxi processo, così come è stato fatto per Calciopoli, sì, in cui la procura sportiva si prendeva le proprie responsabilità, faceva delle proprie indagini e sulla base delle carte di tutti i processi penali faceva un proprio processo in cui sviluppava una propria accusa e al quale poteva arrivare un proprio giudizio. Invece così si è mutuato tutte le carte di un processo penale, imponendo i tempi del processo sportivo, che sono evidentemente diversi, e creando soltanto grande grande confusione e soprattutto grandi contraddizioni, sì. Per cui appunto uno è credibile da una parte, non è credibile dall'altra, quello è credibile, un allenatore che dice ai propri giocatori, o che forse non ha detto, perché io non lo so se l'ha detto. Ma io non sai, ma sai che io continuo a non crederci? Sai che io continuo a non crederci, ma sulla base di un semplice principio di intelligenza, perché un allenatore che volesse farla da furbo andrebbe dai giocatori di cui si fida, ovviamente non parlando pubblicamente in uno spogliatoio in cui passa chiunque, compresi i ragazzini, compresi i massaggiatori, compresi chi ce l'ha con lui, compresi tutti quanti, è un via vai. E allora tu te l'immagini un allenatore che va lì e dice ragazzi oggi facciamo questo e quest'altro, se è così allora c'è da essere davvero preoccupati, perché vuol dire che è una pratica comune. Ma guarda, io non lo so se così è successo, so però che oggi un allenatore è stato condannato per aver detto ai propri giocatori, perché secondo la Federcalcio è vero, pareggiate questa partita perché siamo d'accordo, e che è stato condannato per il reato di omessa denuncia e non per illecito sportivo. Quindi un allenatore che dice alla propria squadra pareggiate e non vincete, non fa un illecito ma fa un'omessa denuncia, che è una contraddizione non diciamo, da un punto di vista della giurisprudenza della legge, ma proprio sintattica, logica, lessicale. Quindi siamo arrivati a sostenere l'assurdo con questa sentenza. Sì. Poi ti ripeto, io nel merito penso, e questo è quello che noi abbiamo provato a raccontare nel libro, che invece il sistema è assolutamente generalizzato e che paradossalmente i giocatori erano convinti di non fare nulla di illecito. Cioè, meglio due feriti che un morto di Buffon, sì. Che è alla base del sistema su cui la comunità organizzata guadagna ogni giorno milioni di euro sulle partite di calcio. Sì. Cioè, io mi accordo per motivi sportivi, io compro le informazioni e me le gioco. È un sistema per cui i giocatori sono convinti di non fare niente di male. E invece la base del sistema è esattamente quello lì, per cui in una partita di fine stagione è giusto e normale tirare indietro la gamba. Sì. Quindi anche, pensi che anche in questo caso 800240024 naturalmente è il vostro numero verde per intervenire, pensi che anche in questo caso si sia tentato di stabilire una sorta di tariffario un po' perverso? Ma io penso che in questo caso sulle sentenze siano state anche in questo caso delle sentenze quasi politiche, nella misura in cui condanniamo uno, assolviamo un altro, che è una roba sinceramente inaccettabile, così come è inaccettabile il patteggiamento proposto da Palazzi. Cioè è inaccettabile soprattutto che un allenatore come Conte, cioè un campione, venga condannato e quindi si faccia 10 mesi di squalifica di fronte a un processo farsa come questo. Se fossi Conte sarei infuriato e porterei la Federcalcio fino davanti al TAR, perché non è possibile che un processo così che arrancava in questa maniera possa condannare chiunque. Probabilmente lo farà, ma il tempo scorre e adesso di fatto la Juventus campione d'Italia è senza allenatore. Poi io credo anche che nell'appello del 20 agosto di fronte alla Corte di Giustizia federale verranno applicati degli sconti, ma questa è solo una mia sensazione. Oggi la Juventus è senza allenatore e quindi in cerca di un allenatore. Abbiamo provato a scrivere su Twitter buttando lì un'idea, ma cosa ne dite di Del Piero, allenatore di questa squadra, putiferio assoluto? Ma guarda, cioè io penso che se vogliamo veramente risolvere qualche cosa dobbiamo appunto smettere di pensare che questa sia una storia di calcio, perché tutto è tranne che una storia di calcio, ma è un'altra storia. È una storia da una parte di criminalità per quanto riguarda quello che per esempio noi abbiamo provato a raccontare nel libro, no? Cioè il sistema del calcio scommesse, mentre questo sistema qui è una storia di politica, di compromessi, di soldi che si fanno, che non si fanno. Tutto questo viene fatto alle spalle dei tifosi, spesso anche alle spalle delle società. Quindi una volta che noi riusciamo ad avere consapevolezza di questa storia, secondo me veramente riusciamo a riappropriarci del nostro gioco e del nostro giocattolo. Questo però, questo che sta accadendo in queste ore, mi sembra che lo allontani drasticamente. Sì. Giuliano, ti ringrazio. Grazie per essere stato con noi. È stato un piacere, soprattutto è stato molto utile. Allora, le sentenze, 10 mesi a Conte, con lui ad Alessio, Pepe e Bonucci assolti. Su Bonucci, ricordiamo, pendeva l'accusa più grave, quella di illecito sportivo, con 3 anni e 6 mesi di richiesta di squalifica, perché appunto non è stato ritenuto attendibile dalla giustizia sportiva, il test Masiello ritenuto invece attendibile dalla giustizia ordinaria, come ci spiegava ora Foschini. Poi Lecce Grosseto in Lega Pro a -6, prosciolta l'Udinese che per inciso prende il Braga in questo intreccio assurdo tra giustizia sportiva e calcio. Oggi c'erano anche i sorteggi dei preliminari di Champions, prende il Braga dunque l'Udinese nel turno preliminare di Champions League, portoghesi da non sottovalutare. Per il Bologna se la cava con un'ammenda, Di Vaio assolto, 6 mesi di squalifica invece a Porta Nova, e l'Inter che nulla c'entra con questa storia. C'entra invece con la storia dei sorteggi. Prendi i rumeni del Vaslui dopo aver visto i sorci verdi ieri sera in casa con l'Hajduk di Spalato. Poi sappiamo che è naturalmente tutto in divenire, che c'è la Corte di Giustizia Federale che aspetta tutti il 20 di agosto, dunque è prematuro, ma a noi è venuta come allenatore della Juventus quest'idea, è quasi un gioco, che però vedo su Twitter ha fatto arrabbiare molti e non capisco perché. Allenatore della Juventus chi? C'è Del Piero Condoni che prova a vedere il pallone tra le gambe dei giocatori, accovacciato. C'è Taddei sul palo, si sta staccando. Alex Del Piero, 1-0, che splendida punizione di Del Piero, che splendida stagione di Del Piero. Poi possiamo parlare di tesserini, di favole, di fantasie, di contratti che non ci sono più, eccetera, eccetera, della voglia del Piero di giocare. È soltanto una buttad. Voi giornalisti siete forti tutti, oggi la Juve conferma che Conte sarà il suo allenatore e voi la Juve alla ricerca di un allenatore. Fede da Alessandria, non lo so se la Juventus sia alla ricerca di un allenatore, può darsi appunto che valga il discorso di un allenatore in tribuna, cioè Antonio Conte, e un altro il vice in campo, e cioè Carrera. Ritengo sia anche l'ipotesi più probabile, ma 10 mesi, un'intera stagione, è tanta roba, almeno allo stato attuale delle cose. Adesso però vado, mentre ricordo il numero verde 800240024, da Dario Ricci di corsa a Londra alle Olimpiadi. Ciao Dario. Ciao Carlo, un saluto a tutti da Hyde Park, siamo intorno al laghetto di Serpentine, spettacolo, location fantastica per questa prova dei 10 km di fondo, la maratona, tanta gente in costume a prendere il sole e Valerio Clerio invece a far fatica in acqua, Carlo. A che punto è? Mi sembra abbastanza tardato. Sì, siamo a 1:18:53. Di gara, considerate che la gara arriverà su per giù intorno alle 14:50 italiane. In testa c'è il tedesco Waschburger e tutti i migliori gli sono al seguito, a partire da Osama Melluli, il tunisino, poi l'altro tedesco Lurz, il grande favorito, il britannico Fogg, il canadese Weinberg e Giannotis, il greco Giannotis, e invece Valerio è piuttosto attardato. Clery al passaggio al terzo giro era quindicesimo con un distacco intorno agli 8 secondi, distacco che sembra essersi accentuato in questa fase, non riesce finora Valerio a innescare le marce alte e a recuperare sui primi, anche se la gara è ancora molto lunga, Carlo. Sì, certamente. Allora, Beppe Grillo non ha perso l'occasione di dire la sua su Alex Schwarzer. Non credo che possa essere entrato in una farmacia di Antalya, ha scritto sul suo blog, e aver messo sul bancone 1500 euro per comprare l'eritropoietina per doparsi, il tutto dopo essersi informato su internet, ma neppure alle Olimpiadi di Paperopoli potrebbe succedere. Il ragazzo mi sembra un capro espiatorio che assume su di sé, per motivi che non conosco, ogni responsabilità. Questo scrive Beppe Grillo sul suo blog. Tornerei alla notte di ieri sera dopo aver sentito Michele da Roma. Michele? Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, ma facciamo ridere sì. Tutti. L'erbaccio si deve tagliare. In che senso? I corrotti via dallo sport. Gli atleti corrotti via, tutti. Cioè, qual è l'esempio che diamo ai ragazzi? Ho capito, ma come facciamo a stabilire chi... mesi, va via, torna. Caso fa, sì. La stessa cosa, va via, torna. Sì, sulla base... questo in valore assoluto, ma magari non sulla base di un processo abbastanza comico come quello cui abbiamo assistito, Michele. Via l'erbaccia, via. Ho capito, ho capito, però non si può neanche passare di lì con la falce, e come c'è un sospetto, un'accusa, perché sennò andiamo ai tempi delle liste di proscrizione, cioè uno è sospettato di essere un ladro e allora gli tagliamo le mani tanto per cominciare, poi vediamo se era un ladro davvero. Mi sembra un discorso estremamente sommario questo, caro Michele. Purtroppo i fatti di questi giorni confermano come c'è un'istituzione importante messa in crisi da fatti ormai da anni, da fatti molto più grandi di quelli per cui era stata creata, e cioè la giustizia sportiva. Servirebbe una profonda riforma della giustizia sportiva, che ha tempi e modi molto difficili, perché così è, però no, non possiamo neanche basarci sulla cultura del sospetto, come uno è presumibilmente colpevole sulle dichiarazioni di un altro non si sa attendibile quanto, allora via, fuori, a casa. Insomma, un conto è fare questo ragionamento, e potremmo farlo all'infinito su questioni comprovate di doping, un conto è farlo su questi discorsi che mi sembrano molto diversi. Dario Ricci, ci sei? Sì, sì, presente. Hai messo gli occhiali da sole ieri quando è partito Bolt? Assolutamente sì, Carlo, che spettacolo che è stato, tra l'altro oggi che già erano stati messi a dura prova da quello che ha fatto Rudiscia, perché sì, mezz'ora prima ci sono visti degli 800, che tant'è che oggi poi l'ipotesi che sta sui giornali è che due si possano, sui giornali, che si possano incontrare nei 400, perché in un futuro vedendo... prossimo venturo, però sì però son due atleti così estremi o così postmoderni, diciamo così, che qualcuno ha immaginato che il giro di pista possa essere un punto di contatto, perché Rudisci ha fatto degli 800 metri spaziali, primo uomo nella storia sotto l'1,41, 1,40,91, record del mondo. E Bolt lo conosciamo, chissà. E Bolt conosciamo, Dario, e ha fatto così. I need to go faster. Faster than lightning. I need to go faster. Faster than bullet. To go faster. I need to work harder. I need to keep driving to the finish where the glory begins. Well, now I get the energy. Set. Cento metri, impressionante l'urlo dell'Olimpico. È partito bene Blake in quarto, è partito bene anche Bolt. Bolt in testa sul rettilineo, Blake è in seconda posizione, sta volando Bolt, ma Blake, attenzione che lo attacca, Blake lo attacca, Bolt ancora davanti, tiene Bolt che va a vincere, Bolt vince, vince Bolt 19.32, Blake fa un tempo strepitoso e dovrebbe essere il tripletto giamaicano. Guerre terzo. Nella storia mai nessuno aveva vinto oro nei 100 e 200 in due Olimpiadi consecutive. Tanto oggi, Dario, leggo di una polemica anche dai toni piuttosto duri tra Bolt e Carla Lewis, perché Lewis ha detto durante una lunga conferenza stampa finita la notte inoltrata che mi chiedo come si possa correre un anno in 10 e 3 e l'anno successivo in 9.69, avanzando neanche troppo velate polemiche. E allora Bolt ha risposto: vorrei dire qualcosa a Carl Lewis, ho perso ogni rispetto per lui, tutto il rispetto. Il doping è una cosa seria, avanzare dubbi su un atleta mi fa davvero rabbia. Penso che lui voglia solo attirare l'attenzione su di sé perché non si parla più di lui. La penso un po' anch'io così. Ma oddio, è una polemica certo non all'altezza dell'occasione, di quello che abbiamo visto sulla pista. Io credo che su questi temi bisogna far riferimento alle prove, ai fatti, certo, e alle sentenze. Andare avanti per sospetti può essere utile per tenervi un certo tipo di attenzione mentale, perché quello che vediamo in pista, se non c'è la cronaca di questi giorni, va sempre vagliato con grande occhio critico. Però da qui a fare illazioni gratuite, sì, mi sembra che Carl Lewis sia scivolato dai tacchi questa volta, ecco. Sì, lo credo anch'io. Mentre altra notizia di oggi è una giornata in cui potremmo fare 8 puntate una dietro l'altra parlando con 1 milione di ascoltatori. Notizie che non c'entrano né con i processi né con le Olimpiadi, ma sto vedendo per caso le immagini di Valentino Rossi. Ebbene, avrete sentito, saprete ormai che Valentino Rossi lascia la Ducati, ha firmato già ufficiale per i prossimi 2 anni con la Yamaha. Dunque, ritorno di Valentino Rossi in Yamaha, e personalmente mi sento un po' sollevato perché mi piange il cuore a ogni gara di Valentino Rossi su quella moto, per lui incomprensibile. Allora, Dario, stai lì, Amerigo, poi parliamo delle nostre medaglie di ieri, parliamo delle medaglie che speriamo di ricevere oggi, che contiamo di ricevere oggi, perché è una giornata importantissima e sarà una serata importantissima per l'Italia. Amerigo, Genova, e poi andrà da Milano. Buongiorno, Amerigo. Buongiorno a voi. Dica. Io volevo accennare una cosa sulla partita di volley di stasera. Io sono stato un mediocrissimo giocatore di volley, quindi sono molto appassionato da quello che avverrà, e volevo sottolineare questa squadra con un opposto che fa pochi punti e con l'elemento più critico nella ricezione, che è il libero, che dovrebbe essere lo specialista, riesce a ottenere dei risultati inimmaginabili. Poi il Brasile è la nostra bestia nera, quindi vedremo cosa succede, ma tanti tanti complimenti a Berruto, perché gli ha lavorato tanto sui cervelli di questi ragazzi. Sì, è vero, lo dicevamo ieri con Lorenzo Bernardi, quindi ha trovato una chimica magari un po' strana, ma una chimica che a questo punto funziona. C'è il Brasile questa sera, Bernardi ci spiegava che è tutt'altro che imbattibile per noi, anche perché ci sono dissidi interni, anche perché abbiamo la possibilità di preparare in maniera anche tattica questa gara, e dunque è tutt'altro che scontata la semifinale che andremo a vedere. Intanto pensate un po', a proposito di doping, viene battuta ora una notizia. Tyler Hamilton, il ciclista americano, è stato ufficialmente privato dell'oro vinto nel cronometro di Atene nel 2004, 8 anni fa. L'annuncio è stato fatto oggi da Mark Adams, portavoce del CIO, al termine della riunione della commissione disciplinare. Dunque, postumo, 8 anni dopo, l'oro va al russo Yakimov. Amerigo Genova, buongiorno. Io sono ancora qua e volevo solo fare una considerazione. Ah, Merigo era quello di prima. Sì, no. Mi sono confuso. Non c'è nessun problema. Vi saluto e vi ringrazio. Saluto e ringrazio io lei. L'altro ascoltatore era Andrea da Milano, che andremo a recuperare subito dopo la borsa che stiamo per... Ah, c'è Andrea? Sì. Eccolo qua. Dica. Buongiorno. No. Velocemente volevo chiedere due cose inerenti al processo Conte e la Juve. Il primo, se mi dà conferma che Conte comunque potrebbe allenare la Juve. Conte non può andare in panchina. Non può andare solo in panchina, ma può allenare la squadra comunque. Conte non può andare in panchina, quindi può mettersi... È squalificato, come tutti gli allenatori squalificati. Può allenare la sua squadra come tutti gli allenatori squalificati. Ok, poi invece la seconda cosa mi piacerebbe chiedere al signor Palazzi... E qui io non posso risponderle, lei lo sa. Va bene, però vabbè, spero che condivida quello che sto per dire, perché se ho ferito Conte, quindi l'ha allontanato dal gioco del calcio per 10 mesi per omissione per non aver denunciato il fatto, perché il signor Palazzi non ha denunciato anche le altre 15 persone, cioè i giocatori del Siena, che hanno confermato quello che ha detto Conte? Perché due pesi, due misure? Se anche gli altri giocatori hanno denunciato la stessa cosa che ha detto Conte, ovvero che non è vero niente di quello che il signor Calobbio ha perché si sospetta che questi giocatori abbiano allontanato la patata bollente per non scottarsi le dita, quindi che questi giocatori non abbiano confermato nulla di questo semplicemente per salvaguardare se stessi. Questo è il sospetto che c'è in una vicenda in cui dichiaro c'è proprio nulla. Beh, mi pare nel momento di tornare dopo sentenze, Bolt, polemiche eccetera, alle nostre preziosissime medaglie di bronzo di ieri, Martina Grimaldi e Fabrizio Donato. Un anno cioè abbastanza impegnativo dal punto di vista degli allenamenti e comunque abbastanza duri, e ho raccolto questo risultato e quindi sono strafelice io. La dedico a tutti quelli che mi hanno seguito, al mio allenatore, al gruppo sportivo della polizia, alla mia squadra di base, il Circolo Nautilus Bologna, all'Emilia Romagna, perché era stato il terremoto. Comunque sono strafelice. Il sogno di tutta la vita, anche se ancora non ci credo, ancora non riesco a realizzare se è un sogno o se ho realizzato un sogno, chiaramente. Che dirvi, faccio veramente fatica ad esprimere le mie emozioni, i miei sentimenti in questo momento. Si può essere giovani, un po' più grandi, ma in questo momento è difficile esprimere quello che si ha dentro. Il mio obiettivo quest'anno era quello di fare 18 metri, non ve lo nascondo. Allenamento fino a 3-4 settimane fa facevo delle cose impressionanti, che credetemi non ho mai fatto in vita mia. E poi purtroppo i dolori mi hanno un pochino rallentato, creando in me anche della stabilità, delle insicurezze. Tecnicamente oggi non ero bellissimo, non ero pulitissimo, non ho saltato bene come avrei voluto. Poi ero costante su quelle misure, ma se avessi centrato un salto qualcosa in più avrei potuto fare anche oggi. E Martina Grimaldi è collegata con noi. Ciao Martina! Ciao, buongiorno! Buongiorno, sembravi quasi distaccata in questa intervista che abbiamo fatto sentire. Ho lavorato abbastanza, ho vinto questa medaglia alle Olimpiadi. Hai capito adesso quello che hai fatto o no? Così. No, magari all'inizio non riesco a capire bene quello che ho fatto. Adesso un po' realizzi. Sì, anche se ho dormito poco, quindi... Dormito poco con la medaglia sul cuscino? No, la medaglia era lì nel salotto. Ho capito. Comunque, gara d'attacco quella di ieri. Sì, beh, ormai cerco di mettermi nelle prime posizioni fin dall'inizio, poi cercare di rimanere lì. Certo che voi ragazze emiliane, tu e Jessica Rossi, non so, magari è una stupidaggine che viene in mente a me o solo una suggestione, però ho la sensazione che i momenti difficili che questa regione ha vissuto vi abbia portato con maggiore rabbia verso l'Olimpiade, rabbia positiva, mi sbaglio? Adesso io a Bologna non è stata colpita, quindi sì. Non ho potuto vivere in prima persona quello che hanno magari potuto vivere anche già Jessica, così. Però sì, comunque magari c'era un po' di cattiveria, di far emozionare magari persone che erano in condizioni un po' diverse da noi in questo momento. Certo, bravissima. Dario Ricci, cosa chiedi alla nostra medaglia di bronzo? Beh, Martina, un commento, tanti complimenti e poi anche un commento su questo scenario fantastico di Hyde Park. Mi sembra una delle location più riuscite di questa Olimpiade ieri e anche oggi, grandissimo entusiasmo da parte dei londinesi. Voi nuotatori del fondo avete aiutato Londra a rendersi conto che c'è un'Olimpiade. Me le sto gustando ora che sto guardando Valerio, perché ieri comunque ho guardato un po', poi dritta guardavo l'acqua e basta. Mi hanno detto che c'era tantissima gente e comunque, soprattutto anche perché c'era l'inglese che giocava in casa ed era una tra le favorite. E comunque sì, è uno scenario bellissimo, tantissima gente che noi non abbiamo mai avuto comunque a vedere la gara. Martina, ti senti un po' come quella che ha salvato una spedizione del nuoto dal naufragio totale? Ok, allora, molti me l'hanno detto. Io ho detto, secondo me anche gli altri ragazzi sono scesi in acqua per tenere alto la nostra bandiera. Non è venuto quello che magari molti si aspettavano, però secondo me stati bravi, secondo me hanno dato anche loro il 100%, non è venuto quello che uno si aspettava, però va bene così, secondo me. Un'ultima cosa, dove ti alleni normalmente? In piscina o nel Reno? No, piscina. Ah, piscina. Non scendi in acque più complicate? Andiamo in acque, nelle nostre acque praticamente prima della gara, che andiamo a fare, andiamo a vedere il campo gara, a testarlo. Come sta andando Valerio? Non benissimo? Ora non tanto, sono 4 sono già staccati, hanno già preso un po' di vantaggio e gli altri indietro e lui è nel gruppetto quello lì, ma dietro. Sta facendo un po' di fatica. Grazie Martina, un abbraccione. Grazie a voi. Un abbraccione a te e alla medaglia di bronzo conquistata ieri. Intanto mi scrivono così sul display su Valentino Rossi un bilancio dei 27 Gran Premi corsi in Ducati, 2 podi, 0 vittorie. Io dico meno male che questa sofferenza, mettiamola così, è finita. Sono molto curioso di capire quanta voglia avrà Valentino Rossi l'anno prossimo su una moto che conosce bene, in un ambiente che conosce bene, più adatto alle sue caratteristiche, quanto sia ancora campionissimo. Dario Ricci, oggi è una giornata importante anche per altri motivi, mi pare. Quelli che accennavamo precedentemente, adesso ci andiamo subito, ti do l'aggiornamento cronometrico sulla gara di Cleri, staccato di 49 secondi da Melluli, che ha iniziato l'ultimo giro con 1:32,8, a 2 secondi e 2 il tedesco Lurz, poi il canadese Weinberg più 4:4, Giannotis il greco più 6:9, Giannotis che tra l'altro, tra parentesi, è stato il primo pedoforo di questa staffetta che poi ha portato da Olimpia il 10 maggio qui a Londra la fiaccola olimpica, e che è nato a Liverpool, quindi sarebbe il vincitore ideale, no? per molti aspetti di questa Olimpiade. Tornando ai temi di oggi, è un pomeriggio da incollarsi alle TV o da godersi il più possibile dal vivo, perché ha la fortuna, perché abbiamo le semifinali della box con Mangiacapre Russo, e poi stasera alle 23:30 italiane Cammarelle, e poi soprattutto le due semifinali della pallavolo e del sette bello Carlo. Alle 20:30 Aero Sport, la pallavolo contro il Brasile, alle 20:50 il sette bello contro la Serbia, che abbiamo sconfitto a Shanghai un anno fa nella finale mondiale. Devo dire, peccato che queste due gare siano in contemporanea, abbiamo provato a chiedere, io ho provato a chiedere qui a Sony, a Sky, come mai questa contemporaneità, nessuno mi ha dato una risposta certa, non è stato possibile, evidentemente non è stato possibile nemmeno per chi versa molti soldi ottenere lo spostamento di queste gare. Ci toccherà scanalare un po' di qua e di là. Intanto anche nella vela stiamo andando piuttosto bene, la partenza dell'italiano Micole Conti in questo momento sono seconde dietro la Nuova Zelanda nel 4,70. Vediamo anche in questo caso come va a finire. Taekwondo, c'è Mauro Sarmiento che si è qualificato per i quarti, dunque anche lì tra pugni e palloni aspettiamo notizie positive per noi. Dario, stai lì che aspettiamo di capire come va Clary. Intanto io continuo a parlare con gli ascoltatori. Antonio, provincia di Venezia, poi andiamo a Milano e poi a Perugia. Antonio. Sì, buongiorno dottor Gento, è un piacere parlare con lei. Reciproco. Sono un tifoso della Roma e avevo bisogno così di due sue considerazioni. La prima, che cosa ne pensa del mercato estivo, che deve ancora terminare? Sì. E poi le reali possibilità per le vendere sulla carta che la Roma si andrà a giocare nel campionato. La seconda osservazione, io poi ho una domanda che le rivolgo, fino a quanto Zeman sarà capace, perlomeno potrà agire in libertà tra virgolette, senza l'influenza che verranno, si conoscono della curva. Perché le dico questo? Perché secondo me fra quei cinque gioielli che ci sono là davanti, che sulla carta secondo me erano l'attacco più forte in assoluto, prima ancora della Juve, del Milan, dell'Inter, ce ne sono cinque lì veramente: destro, Berini, Lamela, Totti, Eusian e Osvaldo. Secondo me l'illustre sarà il signor Totti. Ma guardi, io credo che allora andiamo, Antonio, non la sento benissimo, andiamo con ordine. La Roma secondo me ha fatto un grande mercato, è competitiva, non so fino a che livello Zeman potrà operare, io credo in totale libertà, perché quella che non ha se la prende senza troppi problemi. Destro è comunque, non dimentichiamolo, da riverificare a questi livelli, perché fin qui ha fatto molto bene, ma ha giocato nel Siena, insomma è un giovane su cui si è investito molto, ma è un giovane dal valore assoluto ancora incerto, così come in parte la Mela. L'organico, il personale mi sembra di eccellente livello e mi sembra anche estremamente adatto alle caratteristiche di Zeman. Ho sentito parlare nei giorni scorsi di un possibile interessamento per Cassano, ecco, quello mi sorprenderebbe un po' di più, perché con Zeman non ci azzecca nulla. Un giocatore dalle caratteristiche anche personali di Antonio Cassano. La Roma credo sarà la squadra più divertente del nostro campionato, non credo di sbagliarmi di molto. Ah, tra le notiziole di giornata di ieri, per chi è appassionato di basket ed in particolare di NBA, mega trade negli Stati Uniti con Dwight Howard che va ai Los Angeles Lakers. Quindi immaginatevi un po' Dwight Howard con Gasol, con Kobe Bryant, con Steve Nash nei Lakers. Bynum, fin qui mai convincente, va ai 76ers a Philadelphia. Iguodala ai Nuggets a giocare con Danilo Gallinari. Al Harrington e Aflalo più una prima scelta agli Orlando Magic, quindi mega scambione nell'NBA con giocatori, con top player assoluti. Maurizio da Milano. Pronto? Grazie per avermi dato l'opportunità di parlare con lei. Senta, dottor Gente, ho un'informazione. Io sono un simpatizzante dell'Inter. Sì. Però quello che sta accadendo a questo signore, mi riferisco a Conte, è una cosa indecente. Sì. Qualche anno fa hanno fatto quella porcata di quel tipo di processo sommario, adesso ne fanno un'altra e sono alla fine sempre le stesse persone a dirigire, è cambiato solo un elemento, mi sembra c'era Rossi prima, se ricordo bene, a gestire commissario Guido Rossi, che era commissario, lo ricordiamo, esatto. E adesso c'è sempre Palazzi, c'è sempre la Corte Federale di Giustizia, eccetera eccetera. Maurizio, però siamo sempre a discutere dello stesso punto, è una giustizia sportiva che a prescindere andrebbe riformata integralmente, cioè non è nata per affrontare con gli strumenti che possiede casi complicati di questo tipo. Dal 2006 a oggi ne sono successe di tutti i colori, anzi vado indietro, dal caso Catania in poi, con tutti quei ricorsi al TAR eccetera eccetera, qualcuno se lo ricorderà. La giustizia sportiva non è stata dotata delle strutture, delle procedure, delle normative, dei regolamenti necessari per affrontare in tempi che devono essere per forza di cose strettissimi problemi così grandi e così gravi come quelli che si è trovata ad affrontare, a prescindere dagli individui. Quindi non ne faccio una questione di individui, ne faccio una questione di struttura del processo, quindi è inutile star lì a discutere, perché mi pare che la verità sia sotto gli occhi di tutti. Assistiamo a dei processi farsa perché la struttura è farsesca. Allora, ricordo, l'Udinese si becca l'assoluzione per quanto riguarda il processo, e il Braga in Champions League nel preliminare. L'Inter andrà con il Vaslui, squadra romena, la Lazio con il Mura, squadra slovena. Questi gli accoppiamenti definiti oggi. A proposito di Inter, ieri ha rischiato moltissimissimo in casa con l'Hajduk Spalato, partiva dallo 0-3 dell'andata e ha rischiato di finire fuori. Stramaccioni, tutto sommato, ha provato a fare il tranquillo. Non mi ero esaltato dopo il 3-0 l'andata e non farei drammi adesso, perché secondo me fare drammi il 9 agosto non è una cosa intelligente. Di cose da lavorare ne abbiamo, però io ti dico che ci può stare, fermo restando che facciamo i complimenti all'Hajduk. Così strama. Dario Ricci, come sta andando Clary? Male qui a Serpentine, il ragazzo di Serpentine, cioè Melluli, straordinario interprete di questa maratona che si sta avviando al successo, bracciata ancora fluida anche se mancano appena 3-4 minuti alla fine, soprattutto bracciata, come ci spiegava più a fianco l'immensa novella Calligaris, che ha anche una resa economica eccezionale, quindi ottimizzazione delle risorse e delle energie per il tunisino che si sta avviando verso l'oro. Dietro Lurz e Giannotis e Weinberger, Clary nelle posizioni di retrovia non è mai riuscito a piazzare le sue accelerazioni, la sua zampata, e quindi un'altra occasione sfumata, e chissà che non sia l'ultima per il 31enne di Palestrina, che tra l'altro a Pechino era stato amaro quarto. Sì. Intanto finita la gara di vela, classe 4,70, oro alla Nuova Zelanda, argento alla Gran Bretagna, bronzo all'Olanda. Le italiane Micole e Conti, che erano partite molto bene, chiudono al quinto posto. David Perugia, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno, senta, ho un dubbio che mi assale da un po' di giorni. Oddio. Il record sui 100 metri mi sembra che è 9,58, mentre i 400 credo che siano 37,04, non so se mi sbaglio, adesso non ho il computer, però mi è sembrato di vedere 37,04. Non capivo come era possibile, perché sommando i tre parziali dei 100 metri sarebbero tre record mondiali. Guardi, ho perso la testa, non mi faccio dare una risposta di questo tipo. È chiaro che i 100 metri sono una gara e si corrono in una determinata maniera, cioè si spara tutto su quei 100 metri. 400 metri sono una gara profondamente differente, dunque mi sembra anche complicato frazionarli e fare un raffronto sulle singole frazioni. Non credo che si possa avere un 400 più veloce rispetto al 100, però le do una risposta a braccio, perché una vera non ce l'ho. Andrea, provincia di Vicenza. Sì, buongiorno signor Genta. Volevo solo fare una precisazione sulla considerazione che diceva lei prima sul fatto se Rossi l'anno prossimo tornerà vincente o meno. Secondo me l'ha già dimostrato quest'anno alla gara di Le Mans, quando pioveva. Quando c'è la pioggia le moto sono tutte equiparate, quella più potente, quella meno potente, quella che va meglio, quella che va, cioè si sente meno il limite della moto, e lì Rossi è arrivato secondo partendo dalle retrovie. E con qualche giro in più sarebbe potuto arrivare anche primo, ovviamente la posizione di partenza non la, secondo sì, però, me sa ancora, però sa ancora andare in podio, moto, sa ancora andare in moto, però una vittoria che ormai manca da praticamente tre stagioni, quelle corse sulla Ducati. È evidente che è evidente che lui e questa moto non si sono mai amati, non sono compatibili, non hanno caratteristiche compatibili, e io ho trovato veramente frustranti, da tifoso di Valentino Rossi e della Ducati, ho trovato davvero frustranti queste stagioni di Valentino Rossi sulla rossa. Il fatto che si sia voluto rimettere in gioco e tornare su una moto vincente, secondo me è un ottimo segnale, perché vuol dire che ha voglia di un grande riscatto. Questo intendo. Federico, provincia di Lodi. Buongiorno, dottor Genta. Buongiorno. Buongiorno a lei, è un piacere poter parlarle. Reciproco. Ho una riflessione e una domanda da fare. La riflessione è che ho seguito in questi giorni la vicenda di Ale Schwartz. Sì. E da sportivo ovviamente piange il cuore, sicuramente. Però io non capisco una cosa: questo ragazzo è arrivato al limite della sopportazione. Sì. Ha detto chiaramente che correva perché quello sapeva fare e quello gli portava a casa qualche cosa, probabilmente. Sì. Ma io dico, ma questo ragazzo si è rovinata la vita e la reputazione quando, dopo un oro olimpico, poteva salutare tutti, uscire da vincente e farci una sua vita. Io non capisco perché, come diceva lui in un'intervista, arrivi a questi livelli e non si può tirarsi indietro. Questa è una riflessione che mi viene. Io avrei fatto così piuttosto di combinare anche Moratti, casini. Anche Moratti poteva cambiare l'Inter, che era finita l'indomani della finale di Champions League, e non l'ha fatto. Sai, è molto difficile. È molto difficile quando sei sulla cresta dell'onda, quando sei il numero uno, quando hai ancora, come nel caso di Alex Schwarzer, una vita agonistica davanti, dire va bene, mi fermo qui. Perché? Per tante ragioni, per ragioni economiche, per ragioni anche sportive. Però lui ha ammesso di aver avuto la nausea di questo sport il giorno dopo Pechino. Sa, ci voleva tanto coraggio, ci voleva tanto coraggio dire, a sfilarsi la medaglia d'oro dal collo, appenderla sopra il caminetto e dire: questo è un ricordo, ho 23 anni, non ricordo quanti ne avesse Schwarzer esattamente all'epoca, io mi fermo qui. Quanti ne abbiamo visti? Io non me ne ricordo neanche uno, non me ne ricordo neanche uno. Ha capito poi, strada facendo, che non poteva più essere la sua vita, e ha fatto quel che ha fatto. Intanto c'è l'arrivo del fondo da Dario Ricci. Sì, Carlo, è Ossama Melluli, il tunisino, il nuovo campione olimpico da 10 km di fondo, ha preceduto di 3 secondi e 4 decimi il tedesco Lurz, di 5,2 il canadese Weinberger, quarto, solamente quarto il greco Giannotis a 10 secondi e 2, 17esimo Valerio Clery, 1 minuto e 34 il suo distacco. Non è stata proprio la sua giornata, non è stata proprio la sua Olimpiade, Carlo. Certamente, Dario. Senti, prima di salutarti, fammi un pronostico, anche se non so che so che non è un bel mestiere, però fammi un pronostico a partire da Mangiacapre, che vedremo sul ring alle 16:30, se non sbaglio, con la possibilità di centrare una finale, e poi vai sui due sport di squadra. Lo so che poi ti piace farmi queste domande, perché così poi li rimando in onda domani con i tuoi errori. Sì, certo. Bene, mezza puntata l'abbiamo fatta. Detto questo, io sento Mangiacapre, il mio pugile favorito da ben prima dell'Olimpiade, sarà finale, non ce la faranno Russo e Cammarelle, batteremo il Brasile, non passeremo contro la Serbia. Ah, però, quindi questi pronostici Dario Ricci su questa giornatona azzurra. Grazie Dario, ci sentiamo più tardi naturalmente. Allora, un saluto da Londra. Ciao Dario, chiudo con gli ascoltatori. Giovanni dalla provincia di Ancona. Buongiorno gente. Salve. In riferimento alla sua risposta al radioascoltatore, come mai i giocatori del Siena non sono stati accusati di illecito sportivo, mi dà una conferma che alcuni giocatori che sono stati presi, che hanno scommesso, praticamente possono usare personaggi importanti per salvare le chiappe come hanno fatto loro. No, ma aspetti, però non so se hanno scommesso, non so quello che hanno fatto. Quelli che sono stati accusati principalmente dalla giustizia ordinaria per questo. È stata una. C'è una presunta combina, no? C'è una presunta combina, poi a prescindere da motivi di scommesse, non di scommesse, c'è una presunta combina sportiva. Perciò io credo che non c'è bisogno di un avvocato importante come la Bongiorno, sono convinto che a fine settembre, anche perché Conte era stato. Per illecito sportivo per il Siena l'è stato accusato di fare una No. Conte per omessa denuncia. No, Giovanni, siamo precisi. Conte per omessa denuncia. Precedentemente era per illecito sportivo, poi è stata trasformata, l'ho messa a denuncia, e questo praticamente mette in crisi la giustizia sportiva, in quanto sono convinto che a fine settembre lui sarà sicuramente in panchina, perché ci sono delle contraddizioni enormi su questo fatto. Beh, a fine settembre sarà in panchina, io non credo. Io credo però che ci sarà uno sconto di pena, perché il pasticcio che è stato combinato è troppo grande per essere vero. Io mi auguro soltanto che venga insomma sfruttato questo presupposto di questa evidente discrasia tra sentenze, testi attendibili per gli uni, non attendibili per gli altri, per avviare quantomeno un progetto di seria riforma della giustizia sportiva. Poi sinceramente mi importa poco di quello che capiterà sul campo, perché mi pare che la frittata sia stata fatta con queste sentenze che mi sembrano inique e contestabili da ogni posizione. Quindi il vero problema è il funzionamento della giustizia sportiva. La prova, se ne avevamo bisogno ancora una, ce l'abbiamo adesso sotto il naso, e dunque non mi sembra nemmeno un problema di Antonio Conto degli Juventini. È un sistema che non funziona, che si è trovato ad affrontare delle problematiche, delle tematiche per le quali non era attrezzato. Danilo, Milano, poi andiamo a casa. Buongiorno, sono buongiorno. In linea. Sì, è in linea, certo. Buongiorno, senta, io volevo fare questa considerazione sull'andamento dell'atletica alle Olimpiadi. Visto il risultato disastroso, licenziai tutti i responsabili federali, perché suppongo che tutto il movimento costi parecchi soldi, non ho più pallida idea di cosa costi, eccetera, che ci lavorino un sacco di persone. Quello dell'atletica leggera italiana? Sì. Ma siamo in crisi da decenni però, Danilo, arriviamo un po' in ritardo. Intanto la medaglia di Fabrizio Donato non era nemmeno pronosticabile, quindi la punta di diamante è Schwarzer, che ha fatto quel che ha fatto. E dunque ben venga questo bronzo nel triplo, perché si rischiava seriamente di tornare a casa con zero titoli, zero medaglie, come direbbe Mourinho. Grazie a Donato ciò non è accaduto, però è un movimento in crisi profonda ormai da anni, quindi i licenziamenti dovevano partire da mo'. Io non lo so nemmeno su quali basi, su quale materiale umano noi si possa lavorare. È chiaro che i problemi dell'atletica leggera italiana mi sembrano difficili da risolvere quasi quanto quelli della giustizia sportiva. Ma naturalmente torneremo a parlare di tutti questi temi. Io nel weekend e lunedì vi lascio alle sapienti cure di Claudio Arrigoni per chiudere l'Olimpiade, e poi lunedì parlarne tutti insieme. Ci ritroviamo un paio di volte la settimana prossima. Marotta dice: Conte resta il nostro leader, e col Napoli andrà Carrera in panca nella Supercoppa. Beh, insomma, tutto questo accadrà nei prossimi giorni. Intanto vi auguro un buon weekend insieme a Franco Piantanida in redazione e a Mauro Comes in regia. Ciao a tutti.